I have no comment to make on the content of this announcement by this particular credit rating agency. Non commento i contenuti del declassamento di rating operato da Moody's. Tuttavia, penso che ci si possa legittimamente porre delle domande sull'appropriatezza della tempistica del declassamento. E senza dubbio, non è la prima volta che si pone tale questione. Pensiamo che l'Italia abbia messo in campo un'ampia gamma di misure di risanamento per riportare i conti su un percorso sostenibile, assieme a riforme strutturali significative. Sul fronte del consolidamento dei conti pubblici, l'Italia è impegnata in un'azione di larga portata, di lungo periodo. Uno sforzo che da maggio 2010 è stato pari al 7% del PIL e che permetterà di avere, dal 2013, un considerevole avanzo primario e di porre il debito su un percorso di discesa. Inoltre, dopo aver introdotto in Costituzione la regola sul pareggio di bilancio, l'Italia è uno dei paesi pionieri in questo senso. La Commissione europea saluta lo sforzo di risanamento di bilancio mediante tagli alla spesa pubblica con la Spending Review, una revisione di lungo termine che non finisce con le misure già annunciate. Incoraggiamo il governo a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, a migliorare la concorrenza sui mercati dei servizi e dei prodotti e ad accrescere la capacità di assorbimento dei fondi strutturali comunitari. Benvenuta è poi la riforma del mercato del lavoro, che dovrebbe aumentare il dinamismo del mercato e ridurne la segmentazione.